tu 10 anni e mi fai le pugnette. Parli di porri grandi e ti fumi la mette. La gente sa che la droga fa male ma non smette. Anche se non l'ammetto ormai tossicodipendente. Se vedi una che di tette c'ha la sete, ti scimmi col pornazzo dalla mattina alle 7. Che cazzo si pretende da tutta questa gente? Se poi esce di testa sei media se dipendente. Amico, da quante che fingi di non vedere o che fingi di dimenticare per qualche bicchiere? Gli anni 80 della sboba non sono più in voga, però coi cavalli ci pippiamo la stessa roba. Anestetizzi la tua vita perché così sei scranz, oppure perché sei la jolly della tua città. Dici chi conosce sa i valori che c'hai dentro, in realtà so merda in testa e 20 anni buttati al vento. Però a me non me ne fotte niente di quello che di noi pensa la gente. Metà di loro tanto deficiente, l'altra metà non ha capito niente. Però a me non me ne fotte niente di quello che di noi pensa la gente. Metà di loro tanto deficiente, l'altra metà non ha capito niente. Passo joint come a basketball, mitico, lo colpisco finché caldo bro. Quando poi mi metto a fare il simpatico, voi b-boy mi dite che son fanatico. Click bounce, io che sono overground, Tesla e Maurice in the house, tu cliccaci con il mouse. AMC, io foto la manica. Hey bitch, hey miss, do you like a lollipop? Vengo fumo a scuola di domenica, facci droga parte a vostra madre, gira le coglioni a elica. La gente che ci grisa non ci merita, lo sbirro che mi arresta ed io mi chiedo in testa perché non lo evita. La merda ti macchia come la bombola e vi trasmetto lo stile come la bombocla. E chi ha provato a sputanarmi adesso gongola, e finché tu dare i numeri ho fatto tombola. Però a me non me ne fotte niente di quello che di noi pensa la gente. Metà di loro tanto è deficiente, l'altra metà non ha capito niente. Però a me non me ne fotte niente di quello che di noi pensa la gente. Metà di loro tanto è deficiente, l'altra metà non ha capito niente. Con le tue canzoni tu hai quel fottuto montato del cazzo che c'è a fianco. Non ne possiamo più, ci avete rotto il cazzo. Voi e quella musica di merda, tossici bruciati del cazzo. Ma chi vi ascolta più? Fallite di merda, datevi all'Ippica, coglioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini, da consumarsi preferibilmente entro la fine del porro. Tese Mauri Joint potrebbero causare effetti collaterali o danni permanenti al cervello. Non assumere il prodotto senza prescrizione medica.